Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Test the spalla baby, 1, 2, 3. Test the spalla baby, 1, 2, 3. Test the spalla, test the spalla baby, 1, 2, 3. Cola cola baby, 1, 2, 3. Cola cola baby, 1. Siamo tornati dalle vacanze belli, beh, quello siamo belli. Freschi, ha fatto freddino, riposati, me lo auguro, ma alcuni di noi un po' acciaccati. Basta niente, come si dice, chi è andato a sciare ad esempio potrebbe essere scivolato, la classica sederata, perché no, oppure una caduta sugli sci, a lamentarsi quindi il ginocchio, oppure la classica spalla, niente di grave. Ma tant'è che questo dolorino non passa, e allora io ho invitato un amico della nostra trasmissione per chiedergli che cosa dobbiamo fare. E qua con me in studio è tornato a trovarci il professor Luca Sconfienza, che è direttore della radiologia al Galeazzi e professore all'Università di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Beh, un po' le mettiamo in conto, no? Cioè, chi non cade sugli sci, anche gli sciatori più provetti possono fare una caduta, e quindi traumi più o meno lievi con cui ci confrontiamo all'inizio di questo anno e resistiamo, ma insomma sembra che il dolore non passi, il movimento diventa un pochino fastidioso, d'altra parte ci piace anche lamentarci. Lei che è genovese, come si dice, chi non cianse non tetta, Esattamente. E quindi professore, noi ci lamentiamo con lei, ma dobbiamo avere da lei delle indicazioni. Direi di fare un po' la geografia dei traumi degli sport invernali. Spalla è un classico, o spalla sbaglio? E ginocchio sono le due zone più colpite. Perché diciamo che nello sci di fatto sono le zone che possono essere più soggette a quelli che noi chiamiamo le comuni storte, sì, o gli strappi, no? Sì. Che noi chiamiamo traumi distorsivi, ma insomma hanno la caratteristica di in qualche modo strappare, oppure quando torcere. Lei non ha il camice, dice anche lei. Ho preso una storta anche lei. Sempre, sì sì, assolutamente. E poi insieme a questi ci sono degli altri traumi che possono essere appunto, come diceva lei prima, la classica sederata, no? Che sì, questo può essere ad esempio frequente nei ragazzi anche più giovani che fanno snowboard, in cui appunto una caduta all'indietro può dare proprio un trauma nella regione, diciamo, dei glutei, nella regione, sì, del sacro. A volte non è neanche necessario andare in montagna, basta un po', no? Basta un po' di ghiaccio. Fare la spesa, pam! Esatto, e un attimo, esatto, poi ti rialzi. No, non mi sono fatto niente, perché quando uno cade poi si sente anche un po' in colpa e quindi cerca di minimizzare, ma che male. Sì, poi peraltro la zona, diciamo, del sacro e del coccige è una zona un po' delicata, perché, sì, perché è morbida, sembrerebbe, almeno sì, quella di noi sotto, donne, ma sotto è tenera. Sotto non è tenera, ma ci sono delle ossa, quindi il sacro è un osso bello resistente, ma il coccige è proprio la punta della nostra coda, che non abbiamo più, ma sono dei pezzettini di osso piccoli, tutti attaccati uno insieme all'altro. Quindi un trauma, voglio dire, una persona di 70 kg che cade con tutto il peso, magari su un gradino, su uno spigolo, può fare del danno, insomma. Quindi magari può essere non solo la botta della sederata, ma anche una piccola fratturina, che peraltro in quella zona lì non è sempre facilissima poi da diagnosticare, perché anche la radiografia talvolta in quella zona fa un po' di difficoltà. Immagino. Allora, come avete capito, partiamo dalla spalla e finiamo poi all'osso sacro. Ma resisto, ne parlo con il medico, uso delle creme, dei prodotti locali, degli antinfiammatori, che cosa faccio? Metto il ghiaccio? Allora, dobbiamo intanto stratificare, diciamo, sì, in medicina, diciamo, stratificare per la gravità di questa cosa. Quindi diciamo che io magari escluderei già andati in ospedale, da questo argomento di questa giornata, il paziente, anzi il soggetto che magari cade, fa magari una brutta caduta, che sono per fortuna molto rari, e quindi batte la testa in modo un po' violento, o magari batte anche l'anca, e questo magari succede soprattutto per l'anca, magari nei soggetti un po' più anziani, in cui magari ci può essere una frattura di anca. E questo però, diciamo, fa un po' parte della nostra vita quotidiana, e quindi io questo la lascerei, sì, e la lascerei un po' da parte. Mentre in ambito questi più... Questi se li vede lei in ospedale. Ce li vediamo noi, ma anche gli altri, anche quelli di cui parleremo adesso. Perché di fatto la storta oppure lo strappo, che può essere ovviamente di grado diverso, no? Quindi dalla contrattura muscolare più banale fino al trauma distorsivo un po' più intenso. E la spalla e il ginocchio sono sicuramente le due articolazioni più colpite, perché sono un po' le più mobili e soprattutto le più esposte. E sicuramente il ginocchio lo è nello sci. Perché? Perché di fatto sullo sci noi abbiamo i nostri sci e scarponi che sono ben piantati sul terreno, quindi con le lamine che fanno molta presa, e una caduta o un movimento un po' strano può fare in modo che il ginocchio di fatto si storti, no? Quindi si torca su se stesso. E il ginocchio fondamentalmente è un'articolazione abbastanza esposta a questo tipo di traumi, che è tenuta insieme da delle strutture che sono molto forti, che sono i legamenti e anche le componenti muscolari, che come abbiamo sempre detto sono importanti. Ovviamente se applichiamo su questa articolazione, su questo organo meccanico, una forza molto intensa, anche i legamenti e le articolazioni che sostengono possono in qualche modo fanno quello che possono, ma proprio lacerarsi. E nel ginocchio la struttura che più frequentemente è interessata sono i legamenti crociati, che sono un po' una cosa che sente parlare, sì, un classico. Ecco, il legamento, mi è partito il legamento. Esatto, in realtà di legamenti noi ne abbiamo tanti, i più importanti appunto sono i crociati e quelli che si chiamano collaterali, quindi stanno di lato, ai lati del ginocchio. I legamenti crociati sono due pezzi di corda, diciamo, molto molto resistenti, che sono incrociati nel centro del ginocchio. E ovviamente se noi facciamo una torsione improvvisa con un'intensa forza si possono lacerare, e si possono lacerare anche i menischi. I menischi, che sono dei piccoli pezzettini di cartilagine che sono posizionati fra il femore e la tibia e servono a migliorare un po' degli ammortizzatori. Esatto. Il dolore è differente? Il dolore è differente, lo diciamo a beneficio di chi non è andato in ospedale. Il dolore è differente, però talvolta quando c'è un trauma molto acuto, soprattutto in fase acuta, è molto difficile distinguere questa cosa. E qui allora entriamo in gioco sia il collega ortopedico e poi la diagnostica per immagini, perché il collega ortopedico con delle manovre cliniche è in grado di differenziare in maniera abbastanza accurata la localizzazione del danno, anche se, come dicevo prima, nella fase molto acuta non sempre è possibile, perché il ginocchio è molto gonfio, c'è del liquido all'interno, quindi questo può non essere possibile. E poi il passo successivo, quando c'è l'indicazione clinica, quando il paziente comunque ancora riferisce dolore, sicuramente è la risonanza magnetica. Risonanza magnetica, perché di fatto è l'unica... Ma dopo quanti giorni dalla botta, diciamo così, io posso fare la risonanza magnetica? Allora, possiamo farla anche immediatamente dal giorno dopo, però dobbiamo ricordarci che, come dicevo prima, il ginocchio traumatizzato, come tutte le articolazioni, non è in splendida forma, direi, e quindi la risonanza magnetica tende a vedere un po' infiammazione dovunque. E quindi noi consigliamo sempre di attendere almeno una quindicina, una ventina di giorni. Ecco, per questo noi abbiamo fatto la puntata, per dire state sereni. Io dico passerà, ma non è lei che deve dirlo, professore. Sì, allora noi lo diciamo assolutamente sempre. Diciamo che quando si instaura una terapia corretta a base un po' di antinfiammatori, soprattutto nei primi giorni, il dolore tende ad attenuarsi notevolmente. Quindi, a meno che non ci sia qualche segno che ci deve far sospettare di avere una frattura, cosa che diciamo non è un evento frequentissimo, e quindi con un po' di antinfiammatorio il dolore si riduce moltissimo, ecco, allora in quel caso il consiglio è di evitare di correre a fare una risonanza magnetica, ma vedere un attimo come va. Quindi se è un dolore che tende comunque a ridursi, sicuramente non abbiamo nulla di gravissimo. Ma posso fare una vita normale? Devo tenere il ginocchio fasciato? Metto il ghiaccio? Ghiaccio sicuramente aiuta tantissimo, anche a distanza di giorni dal trauma. Sì. Quando alla abbiamo sera dolore, un po' di ghiaccio. Po' di ghiaccio, la gamba sollevata, magari con un cuscino sotto il materasso, e questo ci aiuta moltissimo a migliorare. Poi, una volta che la fase acuta si è risolta, allora a quel punto, con l'aiuto del collega ortopedico, si valuta qual è, potrebbe essere la struttura interessata, eventualmente l'indagine diagnostica. Invece per la spalla? Per la spalla ci dobbiamo comportare esattamente allo stesso modo, anche in quel caso vale la pena attendere un pochettino. Se la spalla è andata fuori posto è importante rivolgersi al pronto soccorso, perché in quel caso è possibile che ci sia la necessità di rimetterla a posto manualmente o di valutare se c'è una frattura. Se invece non è andata fuori posto, anche in quel caso possiamo attendere un pochettino. Ricordiamoci che per tornare in condizioni abbastanza normali, un'articolazione traumatizzata può volerci anche un mese e mezzo. Quindi non ci allarmiamo, ma teniamo sempre d'occhio le nostre articolazioni. Grazie al professor Sconfienze. Per chi ha preso la culata, così noi la chiamiamo, che cosa deve fare? Anche lì un po' di attesa, se non passa una radiografia va sempre fatta. Grazie al professor Sconfienze, grazie a voi. Quindi resistiamo, dai. Buonissima giornata a voi, noi ci vediamo come sempre a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi in diretta Facebook subito dopo il nostro GR della Salute. Buona giornata.